Vendo tutto di Matteo Caccia. Da qualche tempo vivo senza la Vespa, senza la TV, senza la mia borsa a tracolla e senza il mio cactus. Non gioco più a tennis, non scio più e non vado più a teatro. Eppure vivo bene uguale. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un delfino. Ehi, buoni lì, Lega per la protezione degli animali. Giù lì, giù le mani. Non vendo un delfino vero e proprio, vendo un giocattolo a forma di delfino. Avete presente quei giocattolini che si mettono nella vasca da bagno, paperelle e oggetti vari? Ok, esattamente quella roba lì. Radio24.it se volete vederlo, oppure Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Sono le 16.08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti. Oggi, prima di cominciare a raccontarvi la storia del giorno che riguarda il delfino e riguarda i compagni di viaggio che ci scegliamo e con cui facciamo dei viaggi insieme di 2 giorni, una settimana, un mese, ecco, prima di cominciare a raccontarvi questa storia voglio raccontarvi un altro episodio che mi ha raccontato un amico stamattina e che secondo me è molto divertente e dimostra quanto alla fine la cortesia, il garbo e la buona educazione paghi sempre. La mamma di un mio amico chiama il numero che le hanno dato di un oculista. Lei fa il numero ma sbaglia numero, le risponde una signora. La signora è molto cortese, le spiega che ha sbagliato numero la mamma di questo amico e le dice che stava cercando un oculista. Questa signora è talmente cortese che alla fine la convince a chiamare il suo oculista, quindi le dà il numero del suo oculista e adesso la mamma del mio amico è tranquilla con un oculista che non era quello che cercava ma era quello di un altro. 800240024. Oggi voglio sentire solo, guarda Paolino, abbassa un po' la base così magari se sono in macchina sentono meglio. Oggi è venerdì, sono le 4 e qualcosa del pomeriggio, si presuppone che ci sarà bel tempo per tutto il fine settimana, quindi le persone che stanno partendo in questo momento, che non siano sole in automobile o in coppia, dove per in coppia parlo di coppie, persone che sono fidanzate, ecco, tutti tranne questo gruppo di persone, tutti quelli che sono in viaggio e sono un gruppo di amici, un gruppo di lavoro e sono in auto, su un furgone, sono in moto se riescono ad ascoltarci e sono in un gruppo di persone e stanno partendo per andare da qualche parte, 800240024 oppure un sms al 349-238-6666, perché di compagni di viaggio oggi si parla, perché è sempre interessante capire come si scelgono i compagni di viaggio, magari a caso. Magari chiama qualcuno che ha tirato su un autostoppista. Si può fare autostop ancora, no? Non è illegale. Cioè, in autostrada forse è illegale fare autostop. Vabbè, Bonini dice che lo fa sempre, ma facciamo come se non l'avesse detto. 800-24, oppure se avete tirato su un amico per andare in un posto, oppure se ci avete pensato, avete organizzato un viaggio e sono 2 mesi che ci pensate e oggi è il giorno in cui partite. Ma solo se siete un gruppo di persone, 800-24-0024. Oggi compagni di viaggio, in viaggio, in questo momento preciso. Oppure 349-238-6666. Io qualche anno fa, per fare il viaggio da cui arriva l'oggetto che vendo oggi, i compagni di viaggio me li ero scelti con grande cura, però vi assicuro che anche la cura non basta per definire un viaggio che vada bene con i propri compagni di viaggio. È sempre adatto un po' al caso, no? Ci sono comunque elementi che non conosci mai delle persone che ti stanno vicino fino a che non ci fai un viaggio insieme. È per questo che voglio sentire solo persone in viaggio insieme. 800240024 349-238-6666. Siamo pronti? Il delfino giocattolo, come vi ripetevo, radio24.it è visibile lì, oppure Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Altrimenti, per sentire la storia, eccoci qua. Il delfino. Delfino di plastica da vasca da bagno marca Navy Star, colore azzurro e bianco, materiale plastica. Dotato di pinna snodata per il movimento, con ricarica a molla, conforme alle norme CE per la sicurezza dei giocattoli. Dimensioni, lunghezza 15 cm, altezza 6 cm. Base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La prima volta che ho visto un delfino avevo 32 anni e ricordo ancora la sua pelle che scintilla al sole e i suoi occhi che sorridono. Nell'estate del 2007, insieme a Giulia e ad un'altra coppia di amici, abbiamo noleggiato una barca in Sicilia. Allora, la vita in barca è piuttosto semplice. Ti alzi, fai un tuffo in mare, prepari la colazione e salpi l'ancora. Tiri su le vele, navighi verso un'altra baia ritostata dal vento. Butti l'ancora, fai un altro bagno, ceni e prima di andare a dormire fai quattro chiacchiere sotto le stelle. Lo so, Greta, così sembra il dépliant di un'agenzia di viaggi, però la realtà non si discosta troppo da questa descrizione. Ecco, in tutto questo c'è un'incognita, che essendo un'incognita ovviamente non è calcolabile. Sono i compagni di viaggio, l'equipaggio. Anche se conosci da anni una persona, se è il tuo amico di sempre, se è il tuo fidanzato, le dinamiche umane in un guscio di 10 metri che galleggia rimangono un mistero. Quell'estate, quando decidemmo di prendere una barca, io e Giulia scegliemmo con grande cura i nostri compagni di viaggio, Chiara e Alfredo. Chiara era una delle poche amiche di Giulia che mi stesse simpatica. Faceva l'illustratrice, anche se non aveva bisogno di lavorare, visto che veniva da una famiglia molto benestante. Però non si nascondeva, anzi, si prendeva in giro per questo. Scherzava continuamente sul suo lavoro, sul suo stipendio inesistente e le sue rendite milionarie. Forse per un insieme strano di sensi di colpa, Chiara si era fidanzata con Alfredo. Si erano conosciuti nel centro sociale che lui aveva fondato e che dirigeva insieme ai suoi compagni del movimento leninista. Prima si erano odiati e poi si erano diventati indispensabili l'uno all'altra. Forse perché rappresentavano mondi così lontani tra loro che la voglia di esplorarsi era più forte di qualsiasi ideologia. Anche Alfredo mi era simpatico, nonostante mi riempisse la casella di posta elettronica di mail sulla lotta operaia. Riuscii a convincerlo che una vacanza in barca non era un gesto reazionario. No, al contrario, che aveva un che di progressista, di ecologista. Sai, il vento, il mare, l'energia pulita, tutte quelle cose lì. Girammo un po' a zonzo per il sud della Sicilia. Il tempo era buono, il vento moderato, e quindi proposi di fare una traversata un po' più lunga del solito. E da Porto Empedocle salpammo verso Lampedusa. Tra la Sicilia e Lampedusa ci sono 120 miglia nautiche, che sono più o meno 220 chilometri. Partimmo verso le 7 di sera, in modo da navigare tutta la notte e arrivare a Lampedusa il pomeriggio dopo. Il vento era previsto moderato e il mare calmo, però purtroppo le previsioni non sono sempre infallibili. E il risultato fu una navigazione piuttosto difficile e l'equipaggio vomitò per tutta la notte. Le onde cominciarono a placarsi all'alba, insieme all'asteo di Giulia, Chiara e Alfredo nei miei confronti. Ecco, fu proprio mentre in un tentativo di addolcirli stavo scendendo sotto coperta per preparare un po' di colazione che sentii Giulia urlare «Delfini!». Corremmo tutti a prua. Due delfini stavano giocando davanti alla nostra barca, incrociando le traiettorie e sfiorando lo scafo. Erano enormi ed erano d'argento. Venivano a dirci che il mondo non è così male come sembra e che le tempeste, prima o poi, passano. Not every lover's patty kiss, not every sad mystic replace. If you can love my girl and got my royalty and green. Arrivammo nel porto di Lampedusa che erano le 3 del pomeriggio. Il sole era affilato come una lama e le strade erano deserte. Ormeggiai la barca con ancora negli occhi quei delfini che festeggiavano. E mentre gli altri tre, stremati, si mettevano a letto, io noleggiai un motorino e andai a esplorare l'isola. Lampedusa è una striscia di terra lunga e stretta, che va da destra a sinistra, o da est verso ovest. La parte nord è una scogliera alta e inaccessibile. L'isola è talmente stretta che sono pochissimi i punti da cui non si vede il mare. Uno di questi si trova proprio nel centro, in una piccola valle. Arrivandoci da lontano in motorino, vidi una macchia azzurra che quasi sembrava un lago. Avvicinandomi però mi resi conto che non era acqua. Era un piccolo cimitero. Era un cimitero di barche. Pescherecci, piccole e grandi, a decine, accatastati e con gli scafi sfondati. Probabilmente erano stati ammucchiati con una gru o qualche argano gigantesco, però a guardarle sembrava che delle braccia giganti le avessero prese e, facendole dondolare, no? Uno, due, tre, le avessero buttate lì, dentro a quel recinto. Avevano nomi sconosciuti scritti in caratteri arabi sulle fiancate. Alcune erano intere, altre avevano buchi enormi, altre ancora erano capovolte. Ecco, queste ultime erano quelle che mi facevano maggiore impressione, perché tutti gli oggetti, no, grandi o piccoli, sono disegnati, sono costruiti per stare in piedi, oppure per stare dritti in una certa posizione. Quando capita di vedere quello stesso oggetto in una posizione che non è la sua, è un po' come se fosse nudo. Rimasi un po' immobile sotto il sole, con il motorino acceso a fissare quelle barche inutili. E anche se lo so che sembra strano a dirsi, quelle barche mi fecero tenerezza. Avrebbero dovuto stare in mare con le onde che gli scorrevano sotto, i delfini che gli nuotavano davanti, e invece erano malamente buttate su una collata di cemento. Improvvisamente si alzò una folata di vento che mi asciugò il sudore sulla schiena e mi risvegliò. Diedi gas e tornai verso il porto. Riconsegnai il motorino al noleggio e mi incamminai verso la barca. Si erano fatte le 7, l'aria era finalmente respirabile e le strade si erano animate. Mentre camminavo in una di queste vie strette e bianche, all'improvviso sentii una piccola voce urlare verso di me. «Milano!» Mi girai e vidi un ragazzino con la faccia scura e furba che mi indicava e diceva «Milano, dai, compra un ricordo di Lampedusa!» Capii che probabilmente lui chiamava Milano tutti i turisti che arrivavano all'isola e mi fermai a dare un'occhiata alla sua mercanzia. Si trovava davanti alla porta di casa sua, aveva un banchetto di quelli da campeggio pieno di oggetti, sembravano presi dalla sua cameretta. Qualche topolino, un pallone di cuoio sgonfio, una vecchia maschera con boccaglio, un orologio di plastica, racchette da spiaggia e altre cianfrusaglie. Io gli dissi che non mi serviva a niente, però lui continuò, sosteneva che a Lampedusa non ci sarei tornato tanto facilmente e che un ricordino era il minimo che potessi portarmi via. Mentre lo diceva, notai una piccola macchia azzurra tra il cumulo di oggetti che teneva sul tavolo. Allungai la mano e la presi. Era un piccolo delfino di plastica, di quelli da mettere nella vasca da bagno. Lui lo afferrò e sotto la pancia fece girare una carica che iniziò a far sbattere freneticamente la coda del delfino. «Milano, questo lo metti in acqua e va da solo», mi disse. Lo pagai e me ne tornai in barca. Gli altri dormivano ancora. Io presi un pennarello nero e sulla coda ci scrissi la data di quel giorno. Il giorno in cui per la prima volta avevo visto un delfino. Avevo 32 anni ed era l'11 di agosto del 2007. Eppure, nonostante la notte di tempesta e il suo valore simbolico, questo delfino da vasca è in vendita. Il suo valore sul mercato non lo so, ma la base d'asta qui sono i soliti 99 centesimi. Se siete in un gruppo di persone e siete in viaggio, chiamatemi e raccontatemi dove andate. 800240024. I stop to listen when you start to sing. We think it's time to quit. It's all been some years, we've had it before. I heard your new song on the radio today. It was the same as yesterday. We cannot write new songs better than before. That is a fact we can't ignore. Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! 349-238-6666. Gabriele mi scrive: questa sera partirò per la Patagonia con la tua ex. Buona fortuna, Gabriele. Giacomo e Antonio invece sono in giro per la Puglia a vendere il caffè. Ciao a tutti, belli e brutti. 800240024. Invece c'è un gruppo di allegri, li definirei alcolizzati? No, semplicemente amanti del buon vino che sta andando verso la Toscana. Vittorio da Bergamo, pronto? Sì, pronto. Vittorio. Ciao Matteo. Tutto bene? Tutto quasi. Sei dai, sicuro, Vittorio? Bene. Sei sicuro? Sì, intanto sì, dai, tutto bene. Dove siamo, sei adesso? Da un quarto d'ora da Bergamo verso Montalcino. Cosa andate a fare a Montalcino? Secondo te cosa andiamo a fare? Dimmelo tu, Vittorio. A vendere i delfini in pratica. Senti, dimmi chi sono i tuoi compagni di viaggio. Sono tutti e quattro storditi. Manolo, che è un mio collega di lavoro. Sì. Poi il suo cognato che si chiama Michele. Sì. E poi c'è Nelson. Nelson, ma Nelson. Che nomi avete? Sembrano i nomi dei giostrai, sì. Vittorio. Sì. No, Vittorio è bello, dai. Vittorio poi Nelson è bello. È stordito. Senti, va bene, è stordito. Dimmi. Fammi capire, andate a comprare il vino o a berlo e basta? Allora, no, siccome domenica siamo stati al Vinitaly. Sì, ma era domenica scorsa però, Vittorio, c'è stata una settimana. Certo. Ah, ok. Che è chiaro, no? Chiaro. Abbiamo assaggiato del buon Brunello e adesso andiamo ad acquistarlo proprio. Andiamo in macchina, ci facciamo il weekend lì e compriamo un po' di vino. Ma quanti litri ne avete in mente di portare via? Ma non lo so, penso una cinquantina di bottiglie. Ah, quanto vengono via 50 bottiglie di... Cazzo, non si può dire, ma bisogna trattare. Ah, ok. Ah, comunque sulle 25 euro a bottiglia. Ma Vittorio, scusami, ma in questo momento dove siete? Non siete in macchina adesso? In questo momento stiamo facendo una bella sosta. Ma siete partiti da un quarto d'ora? Siamo partiti da un quarto d'ora, siamo già fermi. Mi passi un attimo Nelson, per piacere, Vittorio. Nelson, vieni qui. Dov'è Nelson? Dov'è? Sarà bene. Manolo, se vuoi. Dammi Manolo. Nelson è andato a fare il pisciatore. Va bene, dammi Manolo. Ciao Vittorio, ciao. Pronto. Manolo, ce la fate? Ciao Matteo. Ciao. Speriamo di arrivare. Ma scusami, un quarto d'ora da Bergamo, dove siete più o meno adesso? Ma siamo entrati in autostrada praticamente. Ed è subito autogrill, esatto. Sì, prima tappa subito. Senti, ma qualcuno di voi è sposato, ha famiglia? Ma siamo tutti sposati. Ah, ok. Quanti anni hai, scusami tu? Io ne ho 41. E cosa fai nella vita che sei collega di Vittorio? Ma noi siamo odontotecnici. Ma l'odontotecnico? Un laboratorio Stezzano, vicino Bergamo. Ma e la fate la fattura oppure? No, c'è Vittorio che fa il pazzo. Questo lo sai. La fate la fattura oppure no? Sempre fattura, per forza. Senza fattura non vai da nessuna parte. L'ultima cosa, poi vi lascio al vostro viaggio oppure quello che è. Manolo, perché Manolo? Che è un soprannome? Ah, è proprio il tuo nome. Ok, mi ricordi gli altri? Nelson? Il Nelson, questo è un soprannome, lui si chiama Davide. Va bene. Senti, facciamo così, dai, mi promettete che mi richiamate lunedì e mi dite com'è andato il viaggio? Dai, lunedì oppure vi richiamiamo noi, insomma. Ci regaliamo anche una bella bottiglia, se bravo, vuoi. Bravo, va bene, passate di qua, tanto sulla strada mi sembra di capire fate diverse tappe, giusto? Sì. Fai buon viaggio, buona giornata. Grazie, Manolo. Ciao. Ciao. Ehi, chi siete? Quello che è passato adesso col caro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Sempre due sono. Andiamo a Scandicci da Libero e Carlo. Pronto? Pronto. Oh, voi siete in macchina e si sente. Sì, beh, c'è un po' di eco in auto. No, vabbè, sì. Però insomma non siete tappa autogrill. Siamo in auto. Non siete tappa autogrilli. Sei Libero o Carlo tu, scusami? Io sono Carlo. Perfetto, mi dici cosa fate in auto invece, tu e Libero? Ma noi in auto staremmo, dopo una settimana di intenso lavoro a Bologna, staremmo rientrando a Roma, quindi è lunga ancora. Siamo in 6 chilometri di coda e ci chiedevamo per quale motivo... In Italia nel 2010 quattro corsie d'autostrada, siamo incolonnati. Questa è una domanda a cui io purtroppo non so rispondere. Cosa facevate a Bologna esattamente? Beh, facciamo un corso di formazione. Perché siete consulenti? Consulenti, esatto. Hai azzeccato proprio il soggetto. Guarda, ho la sensazione di avere un pubblico di consulenti. Consulenti di che cosa, Carlo? È informatica, sicurezza informatica. Sicurezza informatica. Cosa può accadere nell'informatica che ha bisogno di consulenti? Ma guarda, un po' di tutto, dai virus allo spam, di tutto, guarda. Senti, ora prevista di arrivo giù a Roma? Ma effettivamente era un'ora prevista alle 18:30, ma credo che tranquillamente ci fermeremo per cena in autostrada se continuiamo così, ma hanno detto che qui vicino fanno un'ottima carne. Ecco, ok, godetevela. Carlo, salutami Libero. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Sono le 16:27, abbiamo finito anche oggi. Io saluto e ringrazio tutti. Ringrazio Laura Faginti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il Delfino è sul sito radio24.it oppure Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Lunedì è il turno di Un Servizio di Piatti. Devo però rispondere anche a un ultimo SMS che mi arriva quasi tutti i giorni. Paolo che mi dice: Matteo Caccia, hai veramente rotto. Ti prego, dimmi quando finisce sta merda di trasmissione. Il 2 di luglio. Godetevi il fine settimana, che alla fine domenica è sempre domenica.